Capitolo 10. Venezia, 20 giugno 1545. Pietro Perna arpiona una fetta di pane imburrato e tra un boccone e l'altro si lancia nella descrizione del piatto forte della serata. Signori, una piccola lezione di come l'arte culinaria di queste terre ha saputo insaporire e rinnovare una tipica ricetta oltremontana, il merluzzo essiccato. I nostri amici nordici si limitano a lessare questo pesce dopo averlo tenuto in bagno per 2 giorni. Si avvicina e mi abbraccia con aria di commiserazione. Io dico, quale imperdonabile mancanza di fantasia. A proposito, compare, l'avete mai assaggiato prima? Certo, molte volte. L'italiano soffia via una risata tra le labbra e alza gli occhi alle travi del soffitto. Di sicuro è un'esperienza che vi è scivolata sul palato. I sapori che gusterete oggi, al contrario, vi lasceranno un ricordo imperituro. Ebbene, dopo essere stato lessato, il nostro merluzzo viene infarinato, condito di sale, di pepe e di una spezia orientale che chiamiamo cannella. Quindi si fa soffriggere burro, aglio e cipolla, no? E dopo un po' si aggiungono acciughe sminuzzate, prezzemolo trito e vino. Poi, quando il vino si asciuga, si butta il latte, capito? Si versa tutto quanto sul pesce e si cuoce fino a che il latte non si ritira. Infine, lo si serve squisitamente accompagnato da fette di polenta. Sentite, sentite che meraviglia! La domestica del libraio arriva bene, mi rovescia nel piatto abbondanti cucchiaiate, mentre il Bindoni mi riempie il bicchiere con religiosa lentezza. Mi parla con un misto di latino, tedesco e italiano, una lingua quest'ultima che riecheggia quella dei mercanti di Spagna e di cui riesco a cogliere qualche parola. Nessuna bevanda sa accompagnare il pesce quanto i vini delle colline intorno a Verona, messere. Perna fa un salto sulla sedia e mi si rivolge in tedesco. Spero che non abbiate capito quello che ha detto il nostro stampatore qui, perché altrimenti dovrete fare un segno sul vostro taccuino alla voce stronzate del Bindoni. Quindi passa al latino. I nostri amici non sanno che avete già avuto modo di assaggiare il meglio dei vini toscani, capito? E vorrebbero farvi credere che la Serenissima non ha rivali in fatto di vini. Andiamo, messer Pietro. In Toscana non avete idea di cosa bere con un piatto di pesce, lo sanno tutti. Come tutti sanno che il Doge si fa portare le damigiane da Montepulciano. Mi avevano detto, abbozzo in un latino storpiato, che i mercanti di Venezia, dopo la scoperta del Nuovo Mondo, sono preoccupati per l'importanza commerciale che potrebbero assumere i porti occidentali. Certo, se tutte le volte che hanno da trattare un affare si mettono a tavola e cominciano a discutere di salse e di vini, non potranno imputare soltanto a Colombo la loro decadenza. Perna mi squadra un attimo, prende la mira e spara. Se invece i mercanti del nord non la smetteranno di parlare soltanto di affari, presto si troveranno con un monte di quattrini, capito? Ma non sapranno come spenderli, perché l'aringa affumicata sarà diventata l'unico cibo, la birra l'unica bevanda e la Bibbia di Lutero l'unico libro. D'accordo, sorride Bindoni. Allora proviamo a parlare di libri, che almeno in fatto di stampa i toscani devono abbassare la cresta. Cosa proponete esattamente? Perna è incredibilmente sintetico. Forse per consentirmi di cogliere ogni parola. Il beneficio. Lui finanzia e distribuisce nel territorio della Repubblica, tu stampi. Arriva bene, vende a Venezia e io mi occupo del milanese. Bindoni si gratta la barba nera. È un uomo sulla quarantina, un accenno di stempiatura e la carnagione olivastra. Piano, Perna, vacci piano. La stai facendo troppo facile. Come? Quante copie ne hai vendute finora? Circa 3.000, l'intera tiratura. Ma adesso bisogna essere più prudenti. Dall'anno scorso, la magistratura degli esecutori non supervisiona solo il gioco d'azzardo e la bestemmia, ma anche la violazione delle leggi sulla stampa. Perna ha l'accortezza di informarmi in tedesco. Sono i censori di Venezia. Quindi guarda Bindoni, corrucciato, e prende una sorsata di vino. Ma a Venezia sei sempre stampato di tutto. Bindoni. Sì, ma adesso i 10 si sono fatti più furbi. Ogni libro, prima di essere stampato, deve ricevere l'autorizzazione degli esecutori. Ho dei seri dubbi che la concederebbero al beneficio di Cristo. Perna mi guarda, per sincerarsi che anch'io abbia afferrato tutto quanto. Quindi si rivolge ai due compari. C'è qualche problema a stamparlo clandestinamente? Bindoni. No, ma serve qualche titolo di copertura. Se chiedo l'autorizzazione per 9 opere, ci sono buone possibilità che la decima passi inosservata, mi spiego? Perna mi lancia un'occhiataccia mentre sto per prendere il baccalà con le mani e mi sventola sotto il naso un attrezzo biforcuto. Forchetta! Quindi infilza un pezzo di pesce, lo porta alla bocca e aspetta che io faccia altrettanto. Così non ci si unge le mani. Arriva bene un tipo grassoccio, anche lui sui 40, un caschetto di radi, capelli neri e un modo di parlare un po' lezioso, a bocca stretta. Per la stampa non dovrebbero esserci problemi, se non di fondi. Voi che tiratura avevate in mente? Un cenno alla domestica che arriva con un vassoio di conchiglie lunghe e nere, mezze aperte. Perna fa le presentazioni. Cozze. Queste si mangiano con le mani. Ne prende una, l'apre per bene, ci spruzza sopra qualche goccia di limone e succhia il mollusco. Ci mettete il prezzemolo? Dovreste provarle piuttosto con il pan grattato, il peperoncino e un filo d'olio, toscano naturalmente. Io pensavo a 10.000 copie in 3 anni. A bindoni va di traverso il vino. Tossisce, mentre arriva bene gli dà pacche sulla schiena. Riesce a riprendere fiato. Stai scherzando? Per chi mi hai preso, Manunzio? Non posso investire tanti soldi e tante energie su un solo titolo. Perché ancora non hai fiutato la portata dell'affare, gli ribatte Perna. Il nostro amico tedesco può finanziare le prime 10.000, capito? E insieme a me distribuirle per la penisola. Arriva bene diffidente. Come fai a esserne sicuro che venderà così tanto? Perna allarga le piccole braccia. Proprio perché ci sono buone probabilità che venga proibito. Un libro clandestino lo vendi al prezzo che vuoi, capito? E sul suo contenuto montano le aspettative. Lo daremo via come il pane. Savonaroliani, antitrinitari, sacramentisti, criptoluterani e in più tutti curiosi. Non sottovalutate la curiosità degli uomini, amici miei. Può muovere le montagne. Qui a Venezia, precisa arriva bene, la cerchia dei compratori è quella degli amici dello Strozzi e dell'ambasciatore inglese, tutti simpatizzanti di Lutero e Calvino, oltre chiaramente ai viandanti, mercanti e uomini di lettere. Sono convinto, lo rassicura Perna, che a Milano il libro abbia buone possibilità di vendere, e tanto più a Ferrara e a Bologna, dove è pieno di studenti, a Firenze. Prima cominceremo a coprire il territorio della Repubblica, poi se gli affari vanno bene, ci allarghiamo sempre di più. Bindoni è meditabondo, si liscia la barba e gira intorno gli occhi arrossati. Soppesa i rischi e i vantaggi. Ha ben presente i primi e dei secondi non si è ancora convinto. Perna lo incalza. Metà dei guadagni per noi e metà per voi. Bindoni annuisce. Se la tiratura deve essere clandestina, non ci mettiamo il mio nome sopra. Perna gli allunga la mano. Affare fatto. Fossimo in Toscana, suggellerei l'affare nel modo più degno. Ma visto che siamo in laguna, accontentiamoci di questo discreto vino dei Colli Veneti.